Il terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Introduzione di Gianni Celati. Dunque mi trovo qui per presentare questo romanzo che verrà letto ed è uno dei più grandi romanzi, ossia dei libri massimi a cui si fa riferimento nel nostro secolo. Il processo di Franz Kafka. Kafka ha questa caratteristica di essere un autore assolutamente diverso da qualunque altro. E morto giovane nel 1924, ci ha lasciato, oltre a una serie di racconti straordinari, tre romanzi che nelle sue ultime memorie lui voleva fossero bruciati. E tra questi c'è Il processo. Il processo è il primo dei suoi romanzi, scritto nel 1917, romanzo mai concluso, rimasto tra le sue carte, e il secondo dei suoi romanzi. Il primo è America, il secondo è Il processo, il terzo è Il castello. Dunque, quello che ha di caratteristico Kafka è di essere, come dicevo, diverso da qualunque altro scrittore o romanziere del suo secolo, del nostro. Quindi rappresenta come un'esperienza decisiva e cruciale, proprio per lo scrivere, per l'idea di scrivere romanzi, per l'idea stessa di cosa possiamo farne dell'immaginazione romanzesca. Quello che c'è in Kafka è il senso di una scrittura di solitudine, di massima solitudine, che ha cercato la solitudine per tutto il tempo. E in questo senso si potrebbe dire la scrittura senza un'autorità suprema che la sorveglia, neanche l'autorità dei critici. C'è qualcosa di segreto, di sotterraneo. L'inizio del processo è la cosa più sintomatica. Tutti i libri di Kafka hanno questi inizi fulminanti, come se si cominciasse proprio da un sintomo di una malattia, un sintomo di qualcosa che ci toglie dalla cosiddetta normalità. La prima frase del processo dice: qualcuno doveva aver calunniato Joseph K., poiché, senza che avesse fatto alcunché di male, una mattina venne arrestato la cuoca della signora Grubach, l'affittacamere, che ogni giorno verso le 8 gli recava la colazione, questa volta non venne. In realtà questo Joseph K. non è arrestato, gli dicono che è arrestato, gli dicono che lui ha commesso qualcosa. Come diceva, qualcuno doveva averlo calunniato. Cosa voglio dire questo arresto? Durante tutto il processo, lo svolgimento del libro, Kafka non ci presenterà mai gli accusatori. Sarà tutto uno svolgimento di accuse per sentito dire. Non sapremo neanche di preciso cosa siano le accuse, se non questa indipendenza un po' testarda e anche un po' goffa, sempre del protagonista, di Joseph K. Quello che c'è in questo libro, e come nei libri di Kafka, è, come dicevo, qualcosa di assolutamente diverso da tutti i libri. Provo a riassumerlo così. Tutto quello che c'è scritto in questo libro e negli altri libri di Kafka è come se fosse un sogno, cioè come se noi attraversassimo un sogno lungo dove tutto quanto ha lo stesso aspetto sintomatico dei sogni. Kafka ci introduce a qualcosa che fa parte dell'umano e che è la vita assediata dai simboli. Tutto ci porta a vedere che l'uomo, a differenza degli altri animali, è l'animale simbolico per eccellenza, è l'animale che vive di simboli. Solo che quello che succede in Kafka è che noi non sappiamo cosa vogliano dire questi simboli che ci guidano e che ci spingono a correre dietro a ribattere alle accuse e a correre dietro a qualcos'altro. Questo libro è un libro fondamentale per la nostra civiltà. Se lo studiassimo abbastanza bene capiremmo anche qualcosa del punto a cui la nostra civiltà è arrivata. Buon ascolto. Qualcuno doveva averlo calunniato, perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina Josef K. fu arrestato. La cuoca della signora Grubach, la sua padrona di casa, che verso le 8 gli portava ogni giorno la colazione, quella volta non arrivò. La cosa non era mai successa prima. K. aspettò ancora un poco, guardò dal suo cuscino la vecchia che abitava di fronte a lui e che lo osservava con una curiosità in lei del tutto insolita, ma poi, insieme stupito e affamato, suonò il campanello. Qualcuno subito bussò e un uomo che K non aveva ancora mai visto nell'appartamento si fece avanti. «Lei chi è?» chiese K, sollevandosi a metà dal letto. Ma l'uomo lasciò cadere la domanda come se la sua presenza fosse da accettare e si limitò a chiedere a sua volta: «Ha suonato?» «Anna deve portarmi la colazione», disse K. E cercò sulle prime, in silenzio, con l'attenzione e la riflessione, di stabilire chi fosse l'uomo. Quello però non si espose troppo a lungo al suo sguardo, ma si voltò verso la porta e la socchiuse per dire a qualcuno che doveva trovarsi subito dietro: «Vuole che Anna gli porti la colazione». Nella camera attigua si udì una risatina. «Sarebbe nuova», disse Kappa. Saltò dal letto, infilò svelto i calzoni. «Voglio vedere che gente c'è di là e che ragione la signora Grubach mi darà di tale subbuglio». Subito gli venne in mente che non avrebbe dovuto dire questo a voce alta e che in tal modo riconosceva all'estraneo, in un certo senso, un diritto di controllo. Ma poi non dette peso alla cosa. L'estraneo, in ogni caso, l'intese così, perché disse: «Non vuole piuttosto rimanere qui?» «Non voglio né rimanere qui né sentirmi rivolgere la parola da lei, finché non si sarà presentato». «Lo facevo con buona intenzione», disse l'estraneo, e aprì la porta senz'altro invito. Nella stanza attigua, ove K entrò più adagio di quanto volesse, tutto in un primo momento sembrava trovarsi all'incirca come la sera prima. Era il salotto della signora Grubach. Forse nella stanza, riempita di mobili, stoffe, porcellane e fotografie, era un po' più spazio del solito. E questo non si vedeva subito, anche perché il cambiamento più importante consisteva nella presenza di un uomo seduto vicino alla finestra aperta con un libro, da cui adesso alzò lo sguardo. Sarebbe dovuto rimanere nella sua stanza. Franz non gliel'ha detto? Ma lei cosa vuole? Disse K. E portò lo sguardo dalla nuova conoscenza sull'individuo chiamato Franz, rimasto nel vano della porta, e poi di nuovo sull'altro. «Io voglio la signora Grubach», disse K, e fece un movimento come se si strappasse dai due uomini, che erano però distanti da lui e volesse andare avanti. «No», disse l'uomo vicino alla finestra. Buttò il libro su un tavolinetto e si alzò. «Non può andarsene, è in arresto». «Sembra proprio così», disse K. «E perché?» chiese poi. «Non siamo autorizzati a dirglielo. Vada nella sua camera e aspetti. Il procedimento è appena cominciato e lei saprà tutto a tempo debito. Vado già oltre il compito assegnatomi, parlandole così amichevolmente. Ma spero che nessuno ci senta, al di fuori di Franz. E anche lui, contro ogni regola, è cordiale con lei. Se continuerà ad avere la fortuna che ha avuto con la designazione delle sue guardie, potrà stare tranquillo». I due uomini esaminarono la camicia da notte di K e dissero che adesso avrebbe dovuto indossare una camicia molto peggiore, ma che loro avrebbero custodito quella camicia come anche l'altra sua biancheria, e se la sua causa si fosse risolta favorevolmente, gliele avrebbero restituite. «Meglio dia le sue cose a noi che al deposito», dissero, «perché al deposito spesso combinano imbrogli e inoltre, dopo un certo tempo, vendono ogni cosa, senza badare se il procedimento relativo è finito o no». K badò appena a questi discorsi. Non attribuiva grande valore al diritto, che forse ancora possedeva, di disporre delle proprie cose. Molto più importante gli sembrava vedere chiaro nella sua situazione. Ma in presenza di quella gente non poteva neppure raccogliere le idee. Il ventre della seconda guardia, perché solo di guardie si poteva trattare, continuava a urtarlo addirittura amichevolmente, ma se alzava lo sguardo vedeva un volto secco, ossuto, con un grosso naso storto, in contrasto con quel corpo grasso, in atto di intendersi, trascurando lui, con l'altra guardia. Che gente era mai quella? Di cosa parlavano? Da quale autorità dipendevano? K viveva pure in uno stato di diritto, la pace regnava dappertutto, tutte le leggi erano in vigore. Chi osava aggredirlo in casa sua? Per natura era portato a non dare mai gran peso alle cose, a credere al peggio solo quando vedeva il peggio, a non preoccuparsi per il futuro, neppure quando tutto si tingeva di nero. Ma adesso ciò non gli sembrava giusto. Si poteva considerare il tutto come uno scherzo grossolano, montato dai colleghi della banca per motivi sconosciuti, forse perché quel giorno compiva 30 anni. Questo era naturalmente possibile. Forse aveva solo da ridere in un modo qualsiasi in faccia alle guardie, e quelli avrebbero riso a loro volta. Se si trattava di una commedia, lui sarebbe stato al gioco. Era ancora libero. «Permettano!» disse, e passando svelto tra le guardie, rientrò nella sua camera. «Sembra ragionevole», sentì dire alle sue spalle. In camera tirò con violenza i cassetti della scrivania. Tutto dentro era in ordine perfetto. Ma nella sua agitazione non poté trovare subito proprio i documenti di identità che cercava. Alla fine trovò la sua tessera di ciclista e già si apprestava ad andare con quella dalle guardie quando il documento gli parve insufficiente e continuò a cercare finché non trovò il certificato di nascita. Quando rientrò nell'altra stanza, la porta in faccia si aprì e la signora Grubach fece per entrare. La si vide solo un istante, perché appena riconosciuto K divenne visibilmente imbarazzata, chiese scusa, scomparve e richiuse la porta con grande cautela. «Entri pure!» aveva appena potuto dire K, ma ora con i suoi documenti in mano stava in mezzo alla stanza, continuava a guardare la porta che non si riapriva e si scosse di soprassalto solo a un richiamo delle guardie che, sedute al tavolinetto vicino alla finestra aperta, divoravano, come K ora si accorse, la sua colazione. «Perché non è entrata?» chiese. «Non le è consentito», disse la guardia più alta. «Lei è in arresto». «Ma come posso essere in arresto? E in questo modo?» «Ecco che ricomincia», disse la guardia immergendo una fetta di pane imburrata nel vasetto del miele. «A queste domande non rispondiamo?» «Sarà costretto a rispondere», disse K. «Ecco i miei documenti d'identità. Mi mostrino adesso i loro, e anzitutto il mandato d'arresto». «Santo cielo», disse la guardia. «Non solo lei non si rassegna alla sua situazione, ma sembra essersi proposto di irritare inutilmente noi, che in questo momento le siamo forse più vicini di ogni altro suo prossimo. Ecco i miei documenti d'identità». «Ma cosa ci interessa?» gridò la guardia più alta. «Lei si comporta peggio di un bambino. Cosa vuole? Vuole chiudere in fretta il suo grosso maledetto processo, discutendo con noi altri, con le guardie, sui documenti d'identità e sui mandati d'arresto? Noi siamo impiegati di basso rango, che capiscono poco di documenti d'identità e che con la sua faccenda hanno a che fare solo in quanto debbono sorvegliare lei 10 ore al giorno e per questo vengono pagate. Questo è tutto quello che siamo. Tuttavia siamo in grado di capire che le autorità superiori di cui stiamo al servizio, prima di disporre un simile arresto, si informano con grande precisione sui motivi dell'arresto e sulla persona dell'arrestato». In questo non c'è errore, continuò la guardia. Le nostre autorità, per quanto le conosco, e conosco solo i gradi più bassi, non cercano, per così dire, la colpa nella gente, ma vengono attirate, come è detto nella legge, dalla colpa, e debbono inviare noi guardie. Questa è legge. Ed ora le consiglio, aggiunse, di andare nella sua stanza, di starsene tranquillo e di aspettare le decisioni che si prenderanno sul suo conto. Le consigliamo di non perdere tempo con pensieri oziosi. Invece si concentri, avrà bisogno di tutte le sue risorse. Lei non ci ha trattato come la nostra comprensione avrebbe meritato. Ha dimenticato che noi, si sia quel che si sia, almeno ora, nei suoi confronti, siamo uomini liberi. Non è una superiorità da poco. Con tutto questo, nel caso lei abbia i soldi, siamo disposti a portarle una colazioncina dal caffè di fronte. K rimase un poco in silenzio, senza rispondere a questa offerta. Rientrò nella sua camera senza che da parte sua o da parte delle guardie venisse detta una sola parola. Si buttò sul suo letto e prese dal lavabo una bella mela che la sera precedente si era preparato per la colazione. Era tutto quello che adesso aveva per colazione e in ogni modo, come poteva accertarsi dal primo grosso boccone, molto meglio di quello che sarebbe stata la colazione del sudicio caffè notturno portatagli per favore dalle guardie. Si sentì bene, fiducioso. Non sarebbe andato quella mattina in banca, ma l'assenza, considerato il posto piuttosto alto che occupava, era facilmente scusata. Doveva addurre la vera scusa? Pensò di farlo. Se non l'avessero creduto, fatto in questo caso comprensibile, poteva chiamare come testimone la signora Grubach o i due vecchi di fronte che ora si incamminavano certo verso la finestra di rimpetto. K si stupì. O almeno si stupì dal punto di vista delle guardie, per essere stato spinto nella camera e lasciato lì solo, con tutte le possibilità che aveva di uccidersi. Nello stesso tempo, tuttavia, si chiese, seguendo un suo punto di vista, che ragione poteva avere per fare quello. Forse perché quei due sedevano nella stanza vicina e si erano impadroniti della sua colazione? Uccidersi sarebbe stato tanto assurdo che se anche avesse voluto farlo, non ne sarebbe stato capace a causa dell'assurdità. A questo punto un grido dalla camera vicina lo spaventò, al segno che i denti gli batterono sul bicchiere. L'ispettore la chiama! Fu solo il grido a spaventarlo, un grido breve, tronco, militaresco, di cui non avrebbe ritenuto capace la guardia Franz. L'ordine in sé gli era molto gradito. «Finalmente!» gridò di rimando. Chiuse a chiave l'armadietto e si affrettò nella stanza vicina. «Che vi viene in mente?» gridarono quelli. «Volete presentarvi in camicia davanti all'ispettore? Vi farebbe bastonare bene, e noi con voi!» «Ma lasciatemi in pace, accidenti!» gridò Kappa, che era intanto indietreggiato fino all'armadio dei vestiti. Se mi assalite quando sono a letto, non potete aspettarvi di trovarmi in abito di gala. Non serve a nulla, dissero le guardie che quando K alzava la voce diventavano sempre calme, quasi tristi, confondendolo o inducendolo in certo qual modo a riflettere. Cerimonie ridicole, borbottò ancora, ma nello stesso tempo alzò una giacca dalla seggiola e la tenne un po' sospesa con entrambe le mani, come se la esponesse al giudizio delle guardie. Quelle scossero la testa. «Deve essere una giacca nera», dissero. Allora K buttò la giacca a terra e disse, senza sapere neppure bene in che senso lo diceva, «Ma non è l'udienza principale?» Le guardie sorrisero, ma insistettero nel loro «Deve essere una giacca nera». «Se con questo rendo la cosa più spiccia, non ho nulla da opporre», disse K. Aprì lui stesso l'armadio. Cercò a lungo fra i tanti abiti, scelse il miglior abito nero, un completo stretto di vita che aveva prodotto quasi sensazione nella cerchia dei suoi conoscenti. Tirò fuori anche un'altra camicia e cominciò a vestirsi con cura.